Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa la camorra è un dato costitutivo della città di Napoli, meglio potremmo dire le camorre, come le mafie sono un dato costitutivo della società e della storia italiana. E non rinnego la mia affermazione, forse la posso spiegare. Da quanto tempo che non stavo così, ogni cosa con me ci poteva da farmi, ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente, abbraccio a Gabrielli, sa dormo un po' più. Ma io credo che il presidente Bindi debba, no, ognuno fa, debba spiegare quella frase. Credo di aver fatto una giusta affermazione nel dire che la storia italiana, come la storia di Napoli, non si può scrivere se non si scrive anche la storia delle mafie e la storia delle camorre. Non c'è la fila, lo sport. Se tifi un'altra squadra sei lo stesso mio fratello. Fate l'amore invece di impugnare quel coltello. La violenza è stata sempre il metodo di chi non ha cervello. Io non so quale fosse il pensiero del presidente Bindi, ma quella frase quando l'ho letta mi ha fatto saltare dalla sedia. È una frase che non condivido per nulla. La cultura, la storia, il teatro, l'umanità sono l'elemento costitutivo di Napoli, della regione Campania e del Mezzogiorno. O putiferio, a Napoli lo chiamano così, è scoppiato o putiferio. Sì, ma per quale frase avrebbe detto Rosi Bindi? Anzi, come la chiama il presidente della campagna De Luca, Rosaria Bindi. Che avrebbe detto Rosi Bindi? Una frase che poi lei parzialmente smentisce. Avrebbe detto in sostanza così: la camorra è nel DNA di Napoli. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire. E il problema è che la frase incriminata non c'è, perché Rosi Bindi è presidente della commissione antimafia, era a Napoli con tutta la commissione. Bisognerebbe sentire qualcuno della commissione se l'ha detta questa frase. Vabbè, ma poi forse come ha ragione lo scrittore La Capria, no? Intervistato da Repubblica, a dire è una polemichetta di una certa politichetta. Due giorni adesso a dibattere sul fatto, intanto, se abbia detto bene questa frase. La camorra è come dire, magari non ha detto nel DNA di Napoli, però la camorra è un dato costitutivo di Napoli, della campagna, di questa società. Avete sentito Rosi Bindi che poi spiega: non si può spiegare la storia di Napoli senza la storia della camorra. De Magistris che sobbalza e dice il teatro, la cultura sono istitutive e costitutive di Napoli e dei napoletani. Vabbè, sconcerto, polemiche o putiferio. Le 6:33 minuti. 24 mattino, siamo qui con Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. Gli animi sono un po' meno abbacchiati, ormai il derby è cosa del passato, puntiamo a rinascere. E c'è la nostra Paoletta Saluzzi? Posso dal 2015. Evviva le rosse, torna, ma diventa Evviva la Abbiamo Paola. Abbiamo bisogno di una nuova sigla. Dobbiamo fare un appello. Paola Saluzzi, special guest. Paola Saluzzi. Anche perché ormai non siamo più nel 2015, tra un po'. Non ce ne frega assolutamente nulla. Nulla. Ma lasciala andare questa sigla. Che bella chimera. Quando una sera. Dove l'avete trovata? Ah, non lo so, non lo so. Cioè, meraviglioso. Allora, buongiorno Lino, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono a Milano. No. E la cosa, allora, innanzitutto sono a bordo di Delta 24. Delta 24. Capitanata da Stefano, che è un giovanotto molto in gamba. Grande mi dice, Stefano. Ah, io Milan lo seguo sempre. Io volevo passartelo, ma ti dica almeno buongiorno. Se no, certo, se ci passi un attimo Delta 24. Buongiorno a tutti. È andato in onda anche Delta 24. Ah, sì. No, deve urlare un po' di più. Allora Stefano, devo parlare un po'. Buongiorno a tutti i radiospettatori. Ciao, grande. Eccolo. Stefano Delta 24. Ecco, grande Stefano Delta 24. Tu lo sai, allora mettiamo un po' di zizzania. Sai che Paola Saluzzi si sposta sempre con Uber, caro Stefano? Non è vero, lei è un bambino con i capelli rossi, anche un po' che... vabbè, te l'ho tirata un po' così. Adesso venditela, no, ragazzi, con Stefano di Delta 24. L'aereo invece di essere da voi, cioè, era l'occasione per venire in radio. Rimedierò. Buongiorno, intanto. Buongiorno a Paola Saluzzi, che è in tassi. Se il tassista deve strombazzare il nostro Stefano perché magari qualcuno taglia la strada, eccetera, può farlo in diretta, può dire, può imprecare, può dire tutto quello. Come va a traffico? Può strombazzare, può fare tutto quello che vuole in diretta. Io sto facendo la tua parola. Va bene, ci fai il traffico 10 minuti prima che vada in onda? Come va a Milano? Situazione a Milano assolutamente tranquilla. Stiamo superando l'autobus numero 54 che ha messo la freccia per fermarsi, ovviamente alla propria pallina. Sì. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Questa. Va bene. Piovigina. Piovigina. C'è un... Sì, piovigina. Ah, mannaggia. Sì. Sono in motorino. Questo lo devo dire. Porca miseria. Ma stamattina non era tutto a posto. Vabbè. Pazienza. Non saprei dire, ma prima dell'ora di uscita vedrà che sarà uscito anche il sole. No, uscirà il sole, a Roma uscirà il sole. Allora, grazie. Allora, Paola, c'è il nostro Luca Dini, il direttore di Vanity Fair. Eccolo qui. Tu sei in movimento? Luca. No, io no. No, sei fermo. Niente taxi, niente. A Milano va bene, ho capito. Se volete vi passo il divano. Un bracciolo del divano. Sì, però è un po' silenzioso. Allora, siamo qui, 6:36 minuti. Di che vogliamo parlare? Ci sono tante notizie oggi sui giornali. Ah, questa cosa di Napoli, non lo so. Tu, Paoletta, diciamo che passiamo oltre. Ecco, dai. Io sono adottata sorrentina, quindi mi ritengo napoletana per il cuore. Quindi sei... Perché vado sempre a Sorrento, perché amo quella terra, ma diciamo andiamo avanti. Andiamo avanti, cioè, nel senso, i problemi sono altri. Sì, questo è vero. E grossi. Questo e grossi, è vero. Questo è vero. Quindi alla lunga pedalare con i problemi che abbiamo e a Napoli e in Italia e in alcune zone del mondo, dove simpatica gente ha istituito il muro portatile. L'Ungheria, eccolo qui. Un'altra critica, una dell'Ungheria, che eccola. Paola, certo, saluti. Del metodo. No? Il metodo è singolare. Vogliamo dire singolare? Sì, arrestare adesso quelli che attraversano il muro tra Serbia e Ungheria è effettivamente abbastanza singolare, sì. Cioè, hanno messo questo muro portatile, l'hanno istituito. Che tu che faresti all'Ungheria adesso, a Orban? No, adesso seriamente, da Unione Europea, che si potrebbe fare? Convocarlo, quantomeno, e capire, ci sarà stata una motivazione per la quale una nazione come l'Ungheria, che vanta una storia, come dire, e quindi sto facendo la politica, che vanta una storia dolorosa e quindi anche di grandi migrazioni, sarà un motivo per cui si sono comportati così. Farselo spiegare, perché ieri la gente... Questa è la diplomazia. Ecco. Poi Paola Saluzzi, sì, che farebbe invece a Orban? Te lo racconto la prossima puntata. Avendocelo di fronte a quattro occhi. Te lo racconto la prossima puntata. Alla prossima puntata, va bene. Molto bene, Lino, molto bene. Sì. Allora, qui Luca Dini, questa è l'Europa, però io da due giorni che dico, però questa Europa ha l'ennesima prova, mi sembra che si sia mostrata l'ennesima fuffa, o no, tutti divisi. Caro Luca, tutti divisi, però insomma aspettiamo a dire. Io ci farei il gulash con Orban. Ecco, bel, lui te l'ha detto a questa puntata. Un bel gulash di Orban, non sarebbe male, cioè, a pezzettini, che sminuzzato, no, sminuzzato. Con, ma perché? Per, cosa non ti piace di questo metodo un po'? Nulla. Niente, non mi piace perché è pura politica, pura campagna elettorale, puro strumentalizzare il dolore. Non c'è niente di sensato, è semplicemente, diciamo, un calcolo elettorale, quindi io lo trovo orrendo. Orrendo, insomma, di come tratta i migranti. Ricordiamo che sono stati arrestati, credo, in 9.000 per aver passato quella frontiera che è stata istituita tra Serbia e Ungheria. Però ricordiamo anche che ieri non c'era acqua, non c'era cibo, delle persone sono rimaste bloccate tra un pezzo e l'altro di mondo, di terra. Una donna tentava di partorire, l'avrà fatto, spero per lei a questo punto, però stesa per terra in mezzo all'immondizia. E non c'erano ovviamente neanche parlarne i servizi igienici, e non c'era niente, non c'era soprattutto il rispetto per l'essere umano, sì. E non è buonismo questo, è coscienza, credo, che dovrebbe attraversare la testa di tutti, ma c'è una linea politica, come dice il nostro Luca Dini, il nostro direttore, ci sono le elezioni, c'è anche un credo politico, immagino, dall'una e dall'altra parte, per carità, l'Ungheria ha assaggiato anche carri armati sovietici, quindi insomma non c'è colore, c'è la violenza. No, ma è chiaro, ma il modo in cui trattano queste persone, questo sì. Un suggerimento dopo il gulash viene dal nostro Marcello da Pescara, che ci scrive al 349-238-6666. La Saluzzi darebbe giù botte da Orban. E vabbè, qui siamo veramente. Bravo Marcello, nel senso non lo farei mai. No. Saluzzi è una pacifica, non è mica... Due dita negli occhi, magari, insomma. No, vabbè, una roba così. Allora, sentite qui però, Renzi, altra polemichetta di una certa politichetta, la questione di Flavia Pennetta, così abbiamo fatto la rima baciata totale, ancora le polemiche con Renzi, che ieri era a incontrare delle associazioni, e però ha detto una frase in cui ha svelato il motivo per cui è andato a New York. E quando ci sono due italiane in finale al tennis a New York, è una gigantesca operazione di comunicazione per il paese e di andare a dire grazie e bravi a quelle due ragazze. Ma come una gigantesca operazione di comunicazione? Allora l'ha detto Luca Dini, questo è proprio, è andato lì a fare... Ma è vero, cioè, ha detto semplicemente la verità, sì. Io francamente la polemica non la capisco. No, la polemica ci può essere sull'aereo, però voglio dire, insomma, ma non lo so. Però no. Qualcuno ha detto giustamente, fossimo stati alla finale del mondiale, nessuno avrebbe detto niente. Ah beh, questo è chiaro. È un paese ridicolo, cioè... Questo è chiaro, sì, ma infatti è stata una polemica abbastanza ridicola, questo bisogna dirlo. Però... Se fosse andato al derby dove perderete per sempre, sarebbe stato grave, però... Caro direttore, allora, noi avevamo un buon rapporto. Avevamo un buon rapporto. Scusa, cosa stai facendo, Paola? Stai pagando? Ecco, cambiamo discorso, perché Luca Dini, non lo so, ma c'è. No, cambiamo discorso. Poi perderete sempre. Perché è Juventino, Ah, Stefano, Stefano ci faccio un ultimo commento sulla Champions League da Stefano, Delta 24. Sì, buongiorno di nuovo. Com'è andata ieri la partita? Io ero al cinema, sa, noi milanisti non... Guarda, io Juventino però non ho visto nulla perché mi svegliavo presto stamattina, però contento, dai. Io sono uno di quegli sportivi, felice prima di tutto che vinca una squadra italiana, non mi interessa. Ottimo, molto. Giusto, se poi al Milan è molto meglio. Bravo Stefano, mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace, grazie per aver portato in sicurezza e in totale tranquillità Paola Saluzzi all'aeroporto. E, che stavamo dicendo? No, la polemica, Paola, tu... Grazie. Sì, eccomi. No, la polemica. No, allora, la polemica è effettivamente stata una finale del Mondiale di Calcio, nulla da dire. Sì. Sulla frase detta, una straordinaria opportunità di comunicazione, credo che sia una cosa... Grazie. Una cosa giusta, credo che sia una straordinaria opportunità di comunicazione. situazione. Sì, però voglio dire, però viene accusato Renzi di essere proprio così, fare lo storytelling, la comunicazione, di dare un'operazione, di essere molto attento al marketing, a come si vende, a come vende le sue opinioni. E mo adesso dice proprio è stata una gigantesca opera di comunicazione, proprio così. Ma viva la faccia! Viva la faccia, viva la faccia. Ma è Renzi soprattutto che se la prende coi rosiconi, sentitelo ancora, Renzi, i gufi. Nel mondo c'è fame d'Italia e andrà sempre meglio, non credete agli uccelli di sventura, ai profeti di sventura, ai rosiconi, chiamateli come volete, non chiamateli gufi, se no si arrabbiano, chiamateli in un altro modo. Ah, ecco, abbiamo cambiato, gufi non si uccelli può più. Uccelli di sventura, effettivamente, uccelli di sventura, vabbè, passiamo oltre, come dire. Ma a te, Lucadini, interessa tutto il dibattito sul Senato, di cui sei ovviamente appassionatissimo, lo so, sai tutto gli emendamenti. Non ci dormo. Non ci dormi la notte, no. Anche te. Ce lo vuoi spiegare in 30 secondi qual è l'inghippo? L'inghippo, secondo me, è semplicemente dire qualcosa contro Renzi, diciamo. Da parte di qualcuno, cioè soprattutto della minoranza del PD. Non credo ai timori di voglio dire, abbiamo avuto per troppi anni una legge dove in realtà nessuno votava nessuno sceglieva nessuno. Adesso ovviamente ci siamo accorti che ci piace eleggere direttamente le persone, cosa che non facciamo da non so più quale anno. Sì, infatti. Qual è l'ultimo presidente del Consiglio che è stato eletto dagli italiani? Non so, facciamo questo quiz. Tu, Paola, te lo ricordi? Perché allora Monti no, Renzi no, Monti no, cioè Letta no, Monti no, Berlusconi. Drammaticamente sì. Drammaticamente Berlusconi. Questo l'editoriale di Lucadini. No, non nel 94, un po' prima, chiaramente. Vabbè, io devo andare a fare. C'è una comitiva che sta partendo. Facce allegre all'aeroporto di Milano. Ma c'è qualcuno? È bello vedere facce allegre a quest'ora del mattino. Ma se qualcuno. Io mi piace farvi questa telecronaca. Ma chiaro, ma è bellissimo. Ma dove vanno? Cioè, sei davanti al tabellone. Dimmi una qualsiasi località che noi partiamo. Aspetta, che glielo chiedo. Sì. Vediamo se sono italiane. Aspetta, è una. Signore, dove state andando? Scusate, siamo in diretta con Radio 24. Buongiorno. Dov'è che state andando? In Sardegna. Vanno in Sardegna. Lì c'è il sole. Sono in diretta con Alessandro Milan, sì, Radio 24. Vabbè, ma non mi conoscono, è inutile che. No, fate. Buongiorno, vedi che arriva buongiorno. Tutto. Buongiorno, è l'allegria delle quasi sarde, insomma, vedono già il sole della Sardegna e pensano a questo. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, a capire se gli aerei sono tutti a posto, le strade sono tutte a posto, poi dovete preparare le palette perché ci sono dei voti da dare, dei voti. A Milan, io voglio sentire il traffico! Eccoci qui, dai, la segreteria telefonica la sentiremo più tardi. Siamo con Paola Saluzzi, ma che ha ripreso ovviamente. Ma che hai fatto? Ieri non ti ho visto, eri in onda da Milano. Come sono? No, ieri ero in onda da Roma, ma è stata la presentazione del nostro palinsesto Sky. A Milano, vedi come sono informato. Sono arrivata di corsa. E poi torni. A Milano e torni. Stiamo ripartendo. Ma è incredibile, ci sono gli aerei, sì. E quindi alle 15 sei regolarmente. No, Alessandro, ti devo confidare, non volo ancora. Non mi vuole. Piacerebbe tanto, io vorrei essere come l'uomo ragno o il teletrasporto. Allora palette alzate perché arriva l'inno del Movimento 5 Stelle, dovete dare un voto. Sentite un po' qua, lo facciamo solo noi, vagamente di copiato, di salire sopra il tetto, di pretendere rispetto da chi proprio non ce n'ha. Vagamente Vasco Rossi. Lo facciamo solo noi, di non fare compromessi, di restar sempre noi stessi. Vabbè, per amore di onestà. A parte le rime baciate, però lo facciamo solo noi. Diventa un po' più rock, di no? Non prendere rimborsi. Senti com'è, no? Tutta così? Di far fatti e non discorsi. Cioè, è tutta così? Non c'è un cambio di ritmo. Dai, adesso! Forza! Vediamo i soldi per fare le strade. Urca! Loro distruggono. Vabbè, dai, Lucadini, 0-10, il voto. qualcuno? No, no, ma no, te, no, perché? Non ha l'X Factor, almeno è un insulto a Rino Gaetano, cioè. È un insulto a Rino Gaetano, sì, a me sembra bene. Effettivamente sì. E tu, Paola Saluzzi, che dici? Come perfezionabile. Vuoi? Perfezionabile, perfezionabile. Chi è questo? Andiamo a letto la mattina, ecco, presto, ecco, ci siamo solo noi, evoca un po'. Siamo solo noi. Magari. Magari. Non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo. E vabbè, insomma, ci siamo più o meno. Ce n'era anche uno. Ma sapete che ogni partito si è fatto. Mamma mia. Salire sopra il tetto. Ma cazzi, il confronto è discretamente impietoso. Dopo Luca gli dà 0,5, da 1 scende di mezzo voto. Vabbè, ci sono tutti i partiti. Posso parlare invece di bella musica, tutti i partiti. Andate a vedere Capitani, faccio proprio uno spottone. Andate a vedere Capitani Coraggiosi, Morandi, Baglioni. Ah. È bellissimo. Sì. È bellissimo. Ma ci sono anche i profughi, nel senso che Morandi riporta. Grande Gianni. Grande Gianni. È bellissimo. È bellissimo. Morandi è una religione, insomma, voglio dire, non è un amore, è una religione. Baglioni straordinariamente straordinario. È bellissimo, è un grandissimo concerto. Belli tutti e due, bravi tutti e due. Va bene, bravi tutti a vedere. Siamo il concerto. Siamo solo noi. Cos'è questo? L'inno? Ah, Capitani Coraggiosi, Morandi, ragazzi, non è che potete farmi fare ste figure. È grande, ragazzi. Tu l'hai chiesto e tu l'hai ottenuto. Allora, io vorrei dire a Paola Saluzzi che oggi ti puoi rifare gli occhi, perché Vanity Fair mette in copertina un Luca Argentero ignudo. Semi-nudo, ecco Luca, adesso... Paola, sei svenuta? No, sono qui, no, ancora viva. Luca Argentero è presente, insomma. Luca Argentero presente, semi-nudo. Bello. So, c'è un'edicola lì a Linate, adesso poi... Sì, penso di sì. Già aperte. Ne sono sicura. No, però al di là della copertina, sapete che io ho sempre le mie segnalazioni molto interessanti. Allora, per chi vuole sapere, caro Luca Dini, che cos'è, di che pasta sono fatti questi dell'Isis, leggete la storia che c'è a pagina 178 di una donna che è stata, come tante donne purtroppo, sequestrata da questi dell'Isis, seviziata, quasi uccisa, tenuta segregata per quanto tempo. Poi fortunatamente almeno è riuscita a sopravvivere, anche se con una vita molto, molto segnata. E che ha fatto? È riuscita a fuggire, andare in Francia? Sì, ma adesso è tornata a Mosul, non vuole lasciare l'Iraq, però insomma vive oggi in un campo profughi perché il suo paese sostanzialmente non c'è più. Questo è l'Iraq. Sarà anche cristiana, immagino, non lo so. È una yazida, sì, quindi sì. Non è islamica, quindi il pretesto era convertirla. Insomma, per convertirla veniva regolarmente violentata, schiavizzata, eccetera, eccetera. E tra l'altro fa un appello all'Occidente a dire svegliatevi, cioè nel senso non pensiate che questi siano persone con cui si può trattare, mi sembra di capire. No, infatti lei dice nessuna pietà sostanzialmente. Nessuna pietà nei confronti dell'Isis, anche se che fare è un grande tema sul quale abbiamo dibattuto anche qua, non è che dobbiamo risolvere qui i problemi, ma... La comunità internazionale non è che ha molte idee chiare anche su questo, figurarsi l'Europa. Ma Paola Saluzzi, ti troviamo alle 15, giusto? Ore 15, Sky TG24. Tu parli di politica, tu parli del Senato. Politica internazionale, io lo so. Siamo il Senato, ma siamo anche ovviamente ancora sui confini Serbia-Ungheria. Senti, con il nostro Pio d'Emilia, con i nostri inviati. Per favore, fai una cosa tu che puoi. Aboliscilo tu il Senato oggi in diretta. Fai questa cosa, aboliscilo tu, fallo abolire dai tuoi ospiti in diretta, fallo abolire e la chiudiamo qui, questa burattinata di regime. Va bene? Vi ringrazio, Paola Saluzzi, Luca Dini, alla prossima. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ecco.

Newsweek questa settimana esce con una copertina che propone una domanda provocatoria a dir poco. La domanda è questa: il Papa è cattolico? Ovviamente è una provocazione, ma si analizza il papato di Francesco in questa inchiesta, con tutte le uscite, le frasi, le battute, le iniziative, le decisioni che hanno stupito, sicuramente lo hanno fatto probabilmente amare la gente comune, un po' distaccata dalle cose di chiesa, e però, e questo è il senso delle inchieste di Newsweek, lo fanno magari amare un po' meno a qualcuno in Vaticano. Prendete l'ultimo richiamo del Papa. Due giorni fa era in Portogallo e, parlando di quelle congregazioni religiose e magari nelle loro case per ferie, nelle loro strutture, soprattutto a Roma, ma non solo, ospitano i turisti, però devono pagare le tasse. Per carità, la legge lo dice: se un istituto religioso ha fini commerciali dovrebbe pagare le tasse, poi così non è e lo vedremo. Ma ha detto il Papa: a quelli che dicono ora che il convento è vuoto, facciamo un hotel, un albergo, possiamo ricevere gente, ci guadagniamo, ebbene, se vuoi fare questo, paga le tasse. Una scuola religiosa non le paga perché il religioso è esente dal pagarle, ma se lavora come hotel, che paghi le tasse, se no l'attività non è molto sana. Così ha detto il Papa. Allora, come detto, succede che a Roma, per esempio, quante sono le strutture che secondo le stime del comune non le pagano queste tasse? Lo voglio chiedere a Riccardo Maggi, presidente dei Radicali Italiani, consigliere a Roma, che su questo tema si occupa molto di questo tema. Maggi, buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. C'è una stima di quanti istituti religiosi dovrebbero pagare le tasse, almeno secondo il contenzioso col comune, ma non lo fanno? Sì, c'è una stima, in realtà diciamo subito che c'è molto sommerso, nel senso che queste sono solo le strutture note, poi ci sono delle strutture che non sono note eppure svolgono attività, si possono prenotare delle stanze sui canali in rete, internet, e a prezzi di mercato, e questo è importante e vedremo perché. Su 300 strutture ricettive di accoglienza, un 40% circa non ha mai pagato l'IMU da quando esiste questa tassa, quindi dal 2012 in poi, e non ha mai pagato la TASI. Un altro 20% lo paga irregolarmente l'IMU, il restante 40% paga in maniera regolare. Quindi questo è il primo dato abbastanza allarmante. Il Pontefice, grazie alla sua uscita, ha riconosciuto una realtà che finora veniva negata da tutte le istituzioni. Sì, in realtà il Papa non ha detto niente di nuovo, cioè la legge prevede che si dovrebbero pagare le tasse se uno utilizza una parte o tutto un istituto a fini commerciali. Che poi uno lo faccia ed è evasore, vabbè, questo purtroppo, come dire, ne conosciamo tanti, immagini. Il problema è che la legge, l'ultima modifica c'è stata con il governo Monti, dopo che tra il 2011 e il 2012 si era risollevata questa polemica e dopo che c'era stata l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per aiuti di Stato, la legge resta ambigua, sì. Perché dice che l'attività commerciale, o meglio, l'attività non commerciale è quando viene svolta gratuitamente o con prezzi inferiori alla metà di quelli di quella zona. Sì. Chiaramente queste strutture fanno una dichiarazione dicendo che svolgono attività non commerciale, e l'amministrazione dovrebbe poi inseguirle una per una dimostrando il contrario. Sì, anche quindi, perché spesso ci sono inchieste di chi va a chiamare e si sente dire costa una stanza 100 euro, 120 euro, 130 euro, non sembrano le cifre, diciamo, la metà di quello rispetto al mercato nella zona. Non solo, ma basta farsi un giro sui siti di queste strutture, ci sono strutture con piscina, campo da tennis, roof garden, eccetera. Allora, da una parte servirebbe un intervento normativo davvero risolutivo a livello nazionale, cioè che renda poi la norma non un colabrodo come ora, e dall'altra un controllo a tappeto da parte dell'amministrazione. I nomi si sanno, basta andare e verificare effettivamente che tipo di però è. Certo, la domanda che pone Newsweek la voglio girare alla professoressa Lucetta Scaraffia, che insegna la Sapienza a Roma, editorialista dell'Osservatore Romano, e che saluto. Buongiorno professoressa e ben ritrovata. Buongiorno. Una domanda irriverente quella di Newsweek, vabbè, è chiaro, fanno il loro lavoro, Però un po' hanno ragione, perché c'è una specie di tradizione nel nostro paese di cattolici che, utilizzando anche vari appoggi politici, coprono dei favoritismi verso il mondo cattolico. In quel senso lì il Papa non è cattolico, anche perché, non essendo italiano, è completamente al di fuori di questa tradizione e quindi vede le cose con un altro occhio. Questo fatto che molte strutture alberghiere non pagano le tasse è una cosa che si sa da tempo, e si sa anche un'altra cosa che voi non avete detto, ma che è importante, che agita molto gli albergatori di Roma, l'associazione albergatori di Roma, che grazie al fatto che non pagano le tasse possono fare una concorrenza sleale agli albergatori di Roma che le pagano. È chiaro. Quindi insomma ci sono anche delle turbative di mercato, diciamo. Sì. Però il Papa che dice questa cosa, e in realtà non ha detto, ha fatto un richiamo, non è che ha detto bisogna cambiare la legge, la normativa, ha fatto un richiamo. Che portata è? Perché è un qualcosa di rivoluzionario rispetto ai papi precedenti? Non credo, forse è rivoluzionario il fatto che lo dica così. Dica in modo così specifico. Cioè, non rubare, l'hanno detto tutti, gli stati onesti l'hanno detto tutti, lui l'ha detto per una cosa molto specifica, che è pagare queste tasse, su cui sa che insomma c'è stato finora un certo silenzio della Chiesa italiana. Però bisogna anche pensare in che contesto l'ha detto nel contesto della richiesta sua di apertura ai conventi, a tutte le case religiose grandi, di spazi per gli immigrati, e dice: ma questi prima preferiscono fare un albergo che non aprire agli immigrati. E quindi, dice: vabbè, se vogliono fare almeno proprio paghi le tasse, paghino le tasse. Ma è davvero, ci sono delle fronde in Vaticano, lei che frequenta il Vaticano più di me e più di Maggi sicuramente, anche più di noi due messi insieme. Come donna lo frequento pochissimo. No, però chi c'entra? Che di c'entra? Ci sono anche come donne in Vaticano. Non è che ho grandi frequentazioni. Ma sì, cioè, lo si vede, in questo momento è evidente se uno legge quello che sta succedendo intorno al matrimonio. Cioè, fronda, ci sono delle opinioni diverse. Forse finora eravamo abituati a vedere questi scontri, chiamiamoli politici, ecco, che sono politici sul piano invece delle scelte della Chiesa, erano tenuti più nascosti. Adesso si vedono molto chiaramente, perché se il Papa gioca aperto, dicendo le cose ai fedeli, anche diciamo i suoi, quelli che non condividono con lui una parte naturalmente di quello che lui pensa, giocano apertamente. Allora io vorrei, Riccardo Maggi, voi radicali certo non fate mai sconti alla Chiesa, a tutto quello che è il mondo legato al Vaticano, qualcuno vi accusa di accanirvi un po' sul Vaticano, cioè dire l'evasione è evasione fiscale e purtroppo è una piaga italiana, perché ve la prendete soprattutto con l'evasione fiscale, fate i dossier legata alle strutture religiose? Ma in realtà questa è un'accusa che negli anni passati ci veniva rivolta, ed è proprio la risposta di Papa Bergoglio di ora che, come dire, è la migliore risposta che potessimo ricevere. Purtroppo non arriva nessuna risposta per una ipocrisia, diciamo, secolare, nel senso che va avanti da secoli, da parte di politici nazionali e politici locali, che devono un po' compiacere, no, il Vaticano. Oggi c'è anche un'intervista del sindaco Marino che dice: non si tocchino i patti lateranensi, però. Ma lui dovrebbe pensare. Lui si sa è cattolico, ha detto che anche solo guardare porta a porta è peccato. Bisogna sì, ma se non se ne preoccupa il Papa, perché se ne deve preoccupare il sindaco? Lui si preoccupi dell'efficienza del fisco locale. Allora la questione è un'altra: noi andiamo incontro a un giubileo, siamo la città con il livello di imposte locali più alto. E il giubileo non è finanziato con contributi straordinari, quindi gli interventi, pochi che ci saranno a dire il vero, per il giubileo sono tutti sostenuti dalle tasche dei romani, dalle imposte locali. Sì. Queste strutture faranno il tutto esaurito in questa occasione. Immagino. E anche con prezzi che saranno superiori al solito. Ma lei quando dice cambiare la legge, che vuol dire? Per esempio, mi faccia capire, lei vorrebbe qualsiasi istituto che ha un uso commerciale anche a prezzi di qualsiasi tipo deve pagare le tasse? Per semplificare. Beh, allora, la legge, ad esempio, dice che sarebbe preferibile fare la separazione catastale dell'edificio tra la zona in cui si fa attività commerciale e attività non commerciale. Questo spesso non viene fatto. Beh, deve diventare obbligatorio. tu devi scegliere che tipo di attività vuoi fare. E qui parliamo di un piccolo impero del turismo, perché sono circa 15.000 posti letto, sì, a Roma. Non stiamo parlando di una decina di strutture. Appunto, e questa è una cosa chiara. A quel punto si decide se si fa, non si può dire io faccio in alcuni momenti l'attività commerciale, in altri poi accolgo, perché poi sarebbe interessante andare a vedere anche da un punto di vista fiscale nazionale, cioè se queste strutture che devono dimostrare di essere non commerciali fanno ricevute e fatture. Mi dica se vuole, se lei manterrebbe almeno l'esenzione per invece le strutture che hanno carattere esclusivamente religioso, oppure se in una struttura dovrebbe pagare le tasse anche quella, le tasse. No, ma le strutture che hanno carattere religioso e non solo per la confessione cattolica hanno l'esenzione, l'hanno anche quella delle altre religioni, certo, e l'hanno anche tante associazioni che fanno effettivamente attività no profit. Questo, non stiamo discutendo di questo. Il problema è che qui c'è una vera e propria impostura che gioca proprio sull'ambiguità. C'è un'ambiguità, è evidente. Professoressa Scaraffia, ho letto una difesa di questo tipo, di chi diceva, ma insomma il Papa in realtà parlava in Portogallo e quindi parlava ai portoghesi. Le sembra una difesa accettabile, oppure, come dire, un salvataggio in corner, per usare un'espressione calcistica? Anche perché la situazione italiana è molto diversa, perché Roma è un centro di pellegrinaggio molto molto frequentato, anche non durante il Giubileo, anche perché questo Papa proprio attira moltissimi pellegrini, e quindi moltissime sono le strutture religiose che, diciamo così, approfittano di questo pellegrinaggio, che ospitano i pellegrini, e quindi in Portogallo credo che ci siano pochissime strutture religiose, se ci sono, non lo so neppure, che facciano questo servizio, mentre invece in Italia e a Roma soprattutto ce n'è tantissime, quindi è un problema, penso, quasi solo italiano questo, e quindi è comunque in Italia a Roma prende delle dimensioni veramente notevoli. E parlava anche in funzione del Giubileo, secondo lei, visto anche se questo Giubileo in realtà è il Giubileo meno romano che si può immaginare, perché il Papa ha detto ognuno può appunto avere le indulgenze dovunque si trova nella sua Chiesa, però quindi non ha incitato al pellegrinaggio a Roma, però lui stesso è un'attrattiva straordinaria. Bene, è molto interessante capire, ci ha spiegato anche perché, in quale senso il Papa si può considerare non cattolico, senza ovviamente essere irriverenti nei confronti del Papa. La ringrazio, professoressa Lucetta Scaraffia, così come ringrazio Riccardo Maggi, presidente dei Radicali Italiani, anche consigliere comunale a Roma, sempre per i radicali ovviamente. Il numero verde per intervenire 800 24 00 24, non l'ho dato, se volete, su questo tema. Poi avremo, tra qualche minuto dopo la pubblicità, Michele Emiliano, il governatore o presidente, chiamatelo come volete, della regione Puglia. Emiliano, tra poco. Ci siamo, le 8:40 minuti. Allora vorrei sentire Andrea da Roma, che ci chiama all'800240024. Eccoci, Andrea. Buongiorno, signor Milan. Non un chiarimento, ma capire, no? Queste associazioni religiose che fanno queste alberghi, vorrei capire se sono religiose, per modo di dire, sono delle coperture, sono istituti posseduti da congregazioni religiose, eccetera. Allora, questi soldi lucrano, questi soldi dove vanno in beneficenze, sostenere, si compreranno da mangiare, vivranno come tutti. Sì, ho capito, però siccome i prezzi, abbiamo capito che sono dei prezzi, dovrebbero pagare le tasse, è chiaro. È giusto che le stanno a suonare. Ci mancherebbe altro, devono pagare le tasse. No, era una mia curiosità, non lo so dove vanno i soldi. È chiaro che se li tengono per il sostentamento, va bene, delle religiose o dei religiosi che mantengono la struttura. In teoria è come dire, la domanda rivolta è: scusate, un albergatore che possiede un albergo e che paga regolarmente le tasse, che ne fa dei soldi? Li fa per investire, per vivere, per la propria famiglia, e così loro che vivranno insieme. Questo è il dato di fatto. Comunque Andrea, la ringrazio per questo suo intervento. Allora, sono le 8:41 minuti. Vogliamo dare tra 10 secondi le informazioni sul traffico e poi avremo con noi Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Allora, va bene, le 8:44 minuti, tanti messaggi anche sul tema delle tasse, le strutture possedute da congregazioni religiose. Torneremo su questo tema, visto l'appello del Papa, però voglio salutare il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, buongiorno del Partito Democratico. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, eccoci qua. In politica invece, se uno apre i giornali, ci si appassiona, almeno loro si appassionano, i politici, del dibattito sulla riforma del Senato. Lei lo segue con quale attenzione da presidente della Regione Puglia? Ma una totale indifferenza. Addirittura? Sì, guardi, è incredibile che una legislatura così importante come questa stia rischiando per un problema che, visto sia da un punto di vista che dall'altro, non è assolutamente dirimente. Ecco, questo è il punto. Cioè, da un punto di vista dall'altro c'è l'elettività o no del Senato? O dal punto di vista del PD o della minoranza del PD? No, mi riferisco al merito della questione. Cioè, non mi pare che la questione dell'elettività del Senato meriti una rottura così violenta dentro il Partito Democratico e meriti di mettere a rischio la legislatura. Quindi è una specie di appello quello che lancio a tutte le parti in campo, di trovare a tutti i costi un punto di convergenza, perché sarebbe incredibile se la riforma passasse con voti che non sono anche di tutti i deputati e i senatori del PD, e sarebbe davvero incredibile se si andasse alle elezioni per una storia del genere. Cioè, nessuno degli italiani, di quelli che stamattina si è alzato come me, io sto andando a Manfredonia per una vertenza di una fabbrica che sta chiudendo con 400 operai. Vada a spiegargli che si rischia la legislatura, perché la riforma del Senato non si fa, forse. Ecco, quindi questo è il punto. Siccome questo è un punto, ho detto delle banalità, non credo che ci voglia un grande intuito politico per capire che quello che dico io è giusto, non perché lo dico io, ma perché lo dicono milioni di italiani. Sì. Ecco, che in Parlamento si rendano conto che è vero che loro vivono a Roma in una condizione diversa, anche molto stressante, immagino. Ma anche noi qui in periferia siamo abbastanza stressati, preoccupati di quello che sta accadendo, e vorremmo che Roma ci aiutasse, non viceversa, che desse anche solo l'impressione di essere indifferente ai nostri problemi. Ma perché questo intercetta, e poi glielo chiederò tra un attimo, i rapporti tra lei e Renzi, perché vorrei capirci qualcosa di più. Prima però, parlare di Puglia, non si può non parlare ancora degli strascichi della grande vittoria della Pennetta. Ma lei teneva Pennetta o Vinci? Ha avuto una crisi di identità, almeno da Puglia? No, assolutamente no. Sono due donne straordinarie, perché questa è stata la vittoria non solo del talento, che è obiettivo, perché non si vincono gli US Open senza talento, però non c'è solo del talento lì. Lì ci sono due famiglie straordinarie che hanno sostenuto le figlie sin da piccole, c'è un'amicizia meravigliosa tra le due, perché le rivalità e le divisioni, tanto per fare una metafora, non portano niente di buono. Le due si sono spinte a vicenda per tutta la vita, in cordialità e in amicizia. E quindi lei pensava vinca la migliore, avrà pensato. Assolutamente. Devo dire che per certi versi si è creato un buon equilibrio, perché Roberta ha vinto con la Williams, che ovviamente è Davide contro Golia, quindi indimenticabile vittoria. E poi Flavia ha vinto il torneo. A quel punto, onestamente, era veramente indifferente. Credo anche per loro, se ho capito bene. Non lo so. Comunque, perdere non è mai. È sempre relativo. Però non ho avuto l'impressione, guardando il volto di Roberta Vinci, che fosse la sentisse, ecco, la sentisse come una delusione. Questo certamente, ma le ha dato fastidio le polemiche invece di Renzi, che è andato disertando la Fiera del Levante, andando con l'aereo di Stato? Questa vicenda l'ha appassionata, almeno? No. Neanche questa. Io ovviamente ero in fiera, non potevo certo partire, mi sarebbe piaciuto andare a vedere la partita, ma il mio dovere era stare lì con gli imprenditori del Mezzogiorno che... E quello di Renzi no? Quello di Renzi no, secondo lei? Renzi era sostituito bene da Claudio De Vincenti e anche da me. Anche da lei. Ma a questo proposito, il rapporto tra lei e Renzi, perché Renzi l'ha messa tra i suoi nemici interni e nemici avversari politici, lei ha detto mai amato così un leader, com'è la questione? Devo dire, se mi aiutaste a comprenderla sarebbe perché sarebbe non utile. Vi sentite, vuol dire che no, assolutamente. Io ho preso alcune posizioni nel merito un po' diverse da quelle del governo e questo evidentemente ha provocato tutto questo, però sinceramente sì. Io sono un uomo di 56 anni, quindi qualche screzio c'è evidentemente. No, ma guardi, io lo rifiuto totalmente. Tutta la mia vita è stata molto bella e complicata e discrezzi io non ne ho avuti mai con nessuno, neanche con quelli che purtroppo a causa della mia attività forse persino adesso stanno scontando delle lunghe pene detentive. Cioè io non ho mai personalizzato nulla in vita mia, sono un vecchio sportivo e cerco di fare il mio dovere rispettando chiunque, in particolare il Presidente del Consiglio. Quindi il Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, ha diritto e io ho il dovere di sostenerlo e di aiutarlo in tutti i modi. Però Presidente, allora perché con la Regione Puglia ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale, come hanno fatto il Veneto con Zaia, contro la buona scuola, che è una legge del differenza abissale, perché Zaia credo l'abbia fatto per far polemica. E lei? Noi abbiamo richiesto, perché lo ha chiesto il Consiglio regionale all'unanimità, che insomma le assemblee contano ancora qualche cosa, quelle elettive, ha chiesto al Presidente di chiedere il parere tecnico all'Avvocatura se le nostre prerogative in materia di scuola, perché quella è una materia concorrente dove lo Stato dà le linee generali e noi organizziamo il servizio scolastico con la nostra potestà legislativa. Il Consiglio mi ha chiesto, Emiliano, puoi verificare se c'è una lesione delle nostre prerogative? La nostra Avvocatura ha detto di sì, peraltro cose che capitano quotidianamente tra Regioni e Stato, quindi nessuna polemica politica, però il dovere. Ma se poi dopo giudicano incostituzionale la riforma, crea un piccolo problema. Però se è incostituzionale, fa parte della tecnica della Costituzione, non è un problema politico. Cioè, altre regioni, per esempio in Liguria, hanno deciso di non farla questa cosa, eppure sono perché sono dei filoni. Sono dei filoni, ma se sono di centrodestra, insomma, Toti. Ma ci sono anche i filoni di centrodestra, dato il pastrocchio che stiamo combinando in Parlamento. Ecco, per questo. Senta, questo governo fa abbastanza per il Sud? C'è un dibattito, il rilancio del Sud fa abbastanza per il Sud, secondo lei? Io non mi pongo questo problema, perché sono 20 anni che ci sono difficoltà a dotare il paese di una politica industriale e quindi anche di una politica industriale, economica, turistica, no? Per tutte le zone d'Italia e anche per il Mezzogiorno. Questo governo, devo dire, non fa eccezione, almeno per ora, anche se dopo un anno e mezzo di attività e devo dire su alcune emergenze molto rilevanti che sono davanti agli occhi di tutti, spero si dedichi adesso a capire che il Mezzogiorno è una minaccia mortale per il paese se dovesse andare al suo destino, ma è anche un'occasione irripetibile, soprattutto perché, mi auguro, sarà meglio governato nei prossimi anni. Il Partito Democratico ha vinto in tutte le regioni del Mezzogiorno, noi abbiamo tutto il desiderio e l'energia e anche, devo dire, qualche auspicio. La Puglia, per esempio, è una città che è una regione, chiedo scusa, che ha fatto tanti passi in avanti in questi 10 anni, è irriconoscibile rispetto a 10 anni fa, abbiamo lavorato molto, non abbiamo bisogno solo di pacche sulle spalle, questo è chiaro, abbiamo bisogno di partnership, abbiamo bisogno di fiducia, abbiamo bisogno anche di attenzione, quando un Presidente del Consiglio viene qui a Bari e ci incita alla battaglia, è meglio che se non ci viene, questo è ovvio, però adesso contano i fatti e conta anche la fiducia. Quindi, che il governo avrà verso di noi. Vede che un po' gli è dispiaciuto che non è venuto alla Fiera del Levante. Ma lui può venire anche, siccome ha annunciato che verrà comunque a Bari. Io ovviamente lo aspetto a braccia aperte e con uno spirito di indipendenza, questo voglio dirlo. Renzi ha ovviamente, come tutti i leader, l'abitudine ad avere attorno delle persone che gli sono fedeli, un po' la corte, un po' cortigiani, no, li no, vede no, un po'. No, anch'io, intendiamoci, non è mica un'offesa, c'è un rapporto, assolutamente, c'è un rapporto di fedeltà. Ci sono però alcuni soggetti con i quali non puoi avere un rapporto tra virgolette di fedeltà, ma di lealtà. Quindi io lealmente gli dico quello che penso, ovviamente con molta educazione e rispetto, perché non puoi dire a un Presidente del Consiglio quel che ti pare, su questo non c'è assolutamente dubbio, però mi piacerebbe che dentro il Partito Democratico e nel rapporto istituzionale, se qualcuno gli dice qualche cosa, lui la ascolta e risponde qualche volta, e questo aiuta la sua leadership e non la indebolisce. Le chiedo questo: De Luca in campagna ha proposto di aumentare gli stipendi dei consiglieri regionali, equipararli a quelli dei parlamentari. Lei invece li voleva diminuire. Com'è finita quella storia? È finita, ovviamente, che da noi diminuirli non è facilissimo, perché evidentemente poi le assemblee difendono le loro prerogative, e quindi ci stiamo provando. Però aumentarli no, ecco. No, aumentarli è escluso nella maniera più categorica, anche perché sono stipendi di tutto rispetto. In un'azienda privata o insomma nel mondo normale, per guadagnare le somme che guadagnano i consiglieri regionali in Italia, e bisogna avere dei ruoli apicali, guadagnano quanto un primario di un reparto ospedaliero, quindi sono stipendi assolutamente sufficienti a campare di più che dignitosamente. Quindi immaginare di aumentarli mi sembra davvero il colpo. Certo, in quel modo il presidente diventa solidissimo nel rapporto con il consiglio. È chiaro. Più soldi per tutti, più soldi per tutti. Soldi a pioggia, è così, c'è un appoggio politico trasversale, totale. Devo dire, con il venir meno delle ideologie e della militanza come era una volta, insomma. L'accordo trasversale sui soldi non sarebbe male. Mi faccia ridere che non c'è niente da ridere. No, non c'è niente, ci si può fare una risata nel rispetto dei drammi e dei problemi da affrontare tutti i giorni. La ringrazio, Presidente Emiliano, per essere stato con noi. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, una risata non fa mai male, ricordiamocelo tutti. Allora andiamo avanti fino alle 9.30, state con noi dopo il giornale radio. Un saluto da Maurizio Melis. La pescicoltura è una pratica virtuosa perché evita di svuotare il mare dalle specie ittiche che consumiamo più di frequente, ma diventa un problema se alleviamo, come spesso accade, specie carnivore, perché queste si nutrono a loro volta di pesce. Nessuno mai si sognerebbe di allevare leoni a scopo alimentare, mentre questo avviene per spigole, trote e orate. Una soluzione però c'è ed è già ampiamente praticata. L'industria della pesca infatti produce anche enormi quantitativi di scarto. Pensate solo alla preparazione di filetti e bastoncini di pesce, che possono essere trasformati in mangime. In Norvegia, per allevare un salmone di un chilo nel 1990 ci volevano ben 4,4 kg di pesce azzurro, mentre oggi, sfruttando scarti di lavorazione, questo quantitativo è sceso a 7 etti. E in Italia la risposta è che non lo sappiamo. Manca uno studio che permetta di dire quanto è sostenibile il pesce di allevamento italiano. Una mancanza a cui è necessario rimediare. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20.50. Buona giornata. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Sebastiano Barisoni. È un periodo di grazia per la nostra agricoltura, e non solo, perché ieri il Premier Renzi assieme al Ministro Martina ha annunciato l'eliminazione di quasi un miliardo di tasse per il mondo agricolo, tra eliminazione di IMU e di IRAP agricola. È un periodo di grazia infatti anche per i dati e le proiezioni sul 2015 quanto a esportazioni. La Coldiretti ieri ha annunciato che, se non cambiano le cose, il 2015 si chiuderà come anno record per l'export del nostro settore agroalimentare, un valore pari a 36 miliardi di euro. Nei primi sei mesi dell'anno, infatti, grazie anche alla spinta e all'aiuto dato dall'Expo, c'è stata una crescita di quasi il 10%, e i 36 miliardi di euro di esportazioni che il mondo agricolo punta ad ottenere per il 2015 sono particolarmente significativi, perché si riferiscono a tutti i mercati. Infine, anche sul fronte della voce più importante nel nostro export, il settore vitivinicolo, ci attendiamo buone notizie. L'ottima vendemmia fa stimare quest'anno una produzione di vino a livello nazionale intorno ai 47 milioni di ettolitri, più 12%, che ci permetterebbe di superare nuovamente la Francia quanto a produzione mondiale. Certo, restano sullo sfondo tutti i problemi problemi del nostro mondo agricolo, l'eccessiva frammentazione delle aziende, le piccole dimensioni, la sottocapitalizzazione e in alcuni casi anche il tema del caporalato. Ma una volta tanto, permetteteci di guardare, è proprio il caso di dirlo, il bicchiere mezzo pieno. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, sono le 9:09 minuti. Ben ritrovati da Alessandro Milan, anche questa settimana andiamo in diretta fino alle 9:30. Allora, la domanda si potrebbe porre così: ieri il Foglio in prima pagina la metteva proprio su questo tenore. Si può cancellare la storia? No, chiaramente la storia non si può cancellare. E allora ecco che c'è un sindaco del Partito Democratico, credo che si definisca, almeno l'ho letto e definito sul Foglio, renziano di ferro, ma lo chiederò a lui per conferma. È un sindaco che è sindaco a Predappio. Predappio è anche il paese che diede i natali a Benito Mussolini. E allora è un sindaco che vuole portare avanti il progetto di istituire che cosa? Il museo del fascismo, lo chiamiamo così. Sindaco Frassinetti, buongiorno. Buongiorno. Giorgio Frassinetti è sindaco di Predappio. È vero che è un renziano e renziano di ferro? Sì. Dopo... Ma io non so se è di ferro, sicuramente. Vabbè, diciamo renziano. No, perché bisogna specificarlo, PD renziano di questi tempi, bisogna dire da che parte si sta. Sì. Lei vuol fare che cosa? Il museo del fascismo, lo possiamo, se mai ci sarà, no, verrà chiamato così? Ma guardi, io sono nato a Predappio 50 anni fa. Sì. E sono sindaco da 6 anni e davanti a me sono rimasto 4 anni. Quindi ho visto l'evolversi di come le persone sono venute a Predappio, perché a Predappio le persone sono sempre venute. Sì. Prima della guerra a vedere i luoghi del giovane Mussolini. E poi dopo la guerra, quando hanno nel 57 un altro presidente del consiglio di Predappio che si chiamava Don Ezzoli decise di portare il corpo di Mussolini a Predappio, sì, le persone vengono soprattutto a vedere la tomba, insomma, sì, a visitare la tomba. E come si viene a Predappio? Oggi si viene in modo assolutamente così, basta andare su internet, no? In questa epoca post-ideologica sembra quasi in 3 date l'anno, Predappio sembra proprio la terra dove è concesso tutto, no? Mm. Chi viene con il FES, e quindi non c'è assolutamente una ricostruzione storica, comunque si è lasciata perdere, sì, un pezzo di storia, sì, che piaccia o no, è un pezzo di storia che ha caratterizzato l'Italia con i suoi drammi, ovviamente. Solo, anche. Cioè, non è solamente una storia collettiva, ma fa parte della storia individuale di ognuno di noi, perché è evidente che tutti noi abbiamo avuto parenti, genitori, nonni che hanno vissuto in quel periodo. Ma è chiaro, cioè, dell'idea storia, della storia non si cancella. E per questo, sindaco, che lei vorrebbe, come dire, fare un'operazione che, lo sa, si presterà e si presta anche a critiche, a letture molto, molto negative, cioè l'idea, perché il rischio è quello di celebrare un periodo storico. Lei invece cosa vorrebbe fare? Ricordarlo? Beh, mettere insieme? No, io ho questa idea. Per l'altro, non può essere solamente il luogo della celebrazione, no, dove 3-4 volte l'anno vengono questi personaggi. A Predappio vengono più di 100.000 visitatori all'anno, italiani soprattutto, sì, attirati da una curiosità storica, proprio per il fatto che dopo 70 anni dalla morte di Mussolini non è mai stato raccontato, spiegato che cosa è stato veramente il ventennio. Le persone, insomma, si fanno delle domande. Ma mi faccia capire, appunto, che lei cosa vorrebbe, perché già dire museo, lei ha fatto notare, è un qualcosa che monumentalizza, rischia appunto la parola museo. Cioè, cosa vorrebbe fare? Ce lo descriva proprio, un luogo in cui... Può essere pericolosa la parola museo, me ne rendo conto, perché in Italia noi consideriamo un museo come luogo della celebrazione, no? Quindi ogni museo... La domanda è musealizzabile oggi, in che modo il fascismo, i 20 anni di storia che sono, certo, stati anche da un punto di vista europeo così fondamentali, anche perché si consumò un'enorme tragedia collettiva alla fine del fascismo. Chiaro. Quindi un fatto drammatico. Quindi partiamo da questo: è musealizzabile o lo lasciamo ancora in mano agli storici e all'università? Secondo lei la risposta è sì, cioè si può musealizzare. Usiamo questo. Cioè, oggi che l'Europa è in crisi, e lo vediamo anche oggi, no? Che non sappiamo affrontare i temi legati, ad esempio, all'immigrazione, a questi temi. Cosa deve diventare l'Europa? E soprattutto, Predappio, insieme ad altri luoghi in Europa, rappresenta una topografia di luoghi che tutti quanti insieme restituiscono il senso dello stare assieme. Sì, sì. E quindi ricordare è fondamentale, bene lo sanno chi ha ricordare fatto ricordare è fondamentale. Della Shoah. No, ma è chiaro, lei dice tra l'altro cercare di negare quello che è stato è un po' un atteggiamento da bambino, no? Da bambini, quello di pensare che anche le cose brutte una coda di paglia. Però allora sindaco, le presento un onorevole del suo stesso partito, è l'onorevole Emanuele Fiano, che l'ha ascoltata con attenzione. Buongiorno onorevole Fiano. Buongiorno. Di Emanuele Fiano abbiamo raccontato tante volte la storia, abbiamo raccontato la storia soprattutto di suo padre Nedo, unico sopravvissuto della famiglia alle deportazioni nel campo di sterminio di Auschwitz. E allora onorevole Fiano, è chiaro che a me ha colpito leggere, poi per carità stiamo ascoltando il sindaco di Predappio, ma leggere ieri sul Foglio un museo del fascismo è chiaro che è una cosa che colpisce. Il suo punto di vista qual è? Intanto saluto il sindaco di Predappio. Io non ho paura della storia. Penso che noi dovremmo prendere esempio, se mi posso permettere, da come i nazisti i tedeschi hanno trattato la storia del nazismo. Esistono numerosi centri di documentazione, che secondo me è il nome migliore, che museo sì. Identifica con un'ispirazione, con le muse. Invece immagino che il sindaco voglia raccontare la storia terribile delle colpe criminali del fascismo italiano, e i tedeschi, per esempio, immagino che il sindaco l'avrà visto, non so, il centro di documentazione sul nazismo che è stato aperto quest'anno a Monaco, le altre iniziative anche a Norimberga, i tedeschi hanno costruito dei centri di documentazione. Ovviamente mi pare di sentire nelle parole del sindaco, nelle cose che ho letto e che lui ha detto, la volontà di raccontare che cosa fu il fascismo. Deve esserci certezza su questo, sono sicuro che il sindaco non ha dubbi su questo. Io parto da un assunto molto radicale che sta in un motto che pronunciò Giacomo Matteotti prima di essere ucciso nel 1924. Giacomo Matteotti disse, tutti lo sappiamo, il fascismo non è un'idea, è un crimine. Se si parte da questo assunto, cioè di raccontare la storia di quel crimine, un centro di documentazione, e capisco tra l'altro anche la necessità del sindaco, come dire, di ovviare all'invasione di memorabilia, di gadget. Forse anche proprio quello, cioè togliere la paternità ai nostalgici, a quelli che vanno lì assolutamente, però celebrare il fascismo. Non c'è dubbio, sono certo di questo, è ovvio che bisogna togliere il fatto che a Predappio nelle bancarelle si vendano non so che cosa, i manganelli con boia chi molla o le bottiglie con le figlie da duce. Bisogna però che il progetto culturale che presiede a questa iniziativa sia un progetto il cui intendimento è raccontare la storia con tutte le certezze che abbiamo, ma la storia di un crimine. Con questo punto di partenza, sindaco, è questo il punto di partenza che lei ha in mente nel raccontare quello che per onorevole Fiano dovrebbe essere più un centro di documentazione più che un museo? Ma innanzitutto saluto onorevole Fiano, sembra quasi che io e lui ci siamo messi d'accordo, parliamo la stessa lingua, è proprio questo. Io adesso andrò a Monaco a vedere questo centro di documentazione. Voglio stare proprio 3-4 giorni, andare a Norimberga, voglio andare a vedere cosa hanno fatto i tedeschi, perché l'ultima cosa che voglio io è fare uno scivolone. Il comitato scientifico che abbiamo messo in piedi, che è coordinato da Marcello Flores, quindi insomma, storici con le spalle grosse sono presenti nel nostro comitato, certamente deve essere un qualcosa che riguarda una musealizzazione almeno di rango nazionale e internazionale. Cioè, io non voglio essere lasciato solo. Sì. Quindi in questo senso alla fine ci sarà poi chi di mestiere e non solamente storici ma anche di altri settori può dare veramente una mano a Predappio per togliersi questa pagina di un luogo dove è vero che da questo punto di vista ne ha parlato anche con Renzi, so che racconta che un anno fa venne in maggio, c'erano le elezioni, in campagna elettorale, sì. E aveva letto un articolo che aveva scritto La Repubblica in prima pagina. Si ricordava, abbiamo chiacchierato qualche minuto, detto, e lui si ricordava, detto, vai avanti così, che mi sembra un'ottima idea. Poi quindi, io ho fatto la mia campagna elettorale, poi ho ripreso in mano questa cosa E porta avanti questo intendimento. Trovare i soldi. No, ma è chiaro. Onorevole Fiano, qui è un po' il problema sempre del trattare con il nostro passato, fare i conti con il nostro passato, fare i conti con la storia. Gli italiani sono maturi, secondo lei, ad affrontare questo tipo di discorso? Ma la maturità non esiste mai una volta per tutte. Bisogna sapere cosa gli racconti. Magari anche a quelli che vanno in pellegrinaggio alla tomba del Duce a Predappio, se gli raccontassimo per benino che cosa fece il fascismo, non dico solo quell'episodio più o meno conosciuto da tutti delle leggi razziali, ma sempre più o meno bisogna dire, ma comunque anche quello che fece agli italiani, chi impoverì, chi portò a morire nelle guerre coloniali, chi portò a morire sul fronte russo, essere pronti non lo so, è una domanda alla quale non so rispondere, so che bisogna continuare a spiegare, ripeto, secondo me, guardi, le dico anche quando l'ho ripensato questa differenza tra il percorso che hanno fatto i tedeschi e quello che hanno fatto gli italiani, che gli italiani hanno un grande merito di aver fatto la guerra partigiana e quindi di essersi liberati da soli, ovviamente insieme al grandissimo aiuto degli alleati. L'ho pensato riguardo a quello che sta succedendo in Europa sugli immigrati, magari io mi sbaglio, ma ho avuto l'impressione che il governo tedesco, la signora Merkel, insomma qualcuno di loro, a vedere determinate immagini di una umanità in movimento, di milioni di persone in movimento, immagini di filippinati, immagini magari di numeri segnati col pennarello sul braccio, abbiano avuto un riflesso dovuto al fatto che loro hanno elaborato una storia terribile che li ha preceduti, quella del nazismo. E io penso che in Italia non sempre la storia del fascismo sia stata raccontata per bene, fino in fondo, nelle nostre scuole, a tutti noi, poi io e il sindaco apparteniamo alla stessa generazione. Per cui io penso che un progetto culturale deve essere fatto, ho sentito citare degli storici di vaglia, deve essere fatto con grande attenzione, perché ripeto, in Germania lo hanno fatto e secondo me è servito a formare una coscienza e comune. Quindi perché non da noi? Io vi ringrazio, staremo a vedere appunto questo centro di documentazione o insomma questo che sorgerà a Predappio riguardante il fascismo. Ringrazio il sindaco Giorgio Frassinetti, così come ringrazio l'onorevole Emanuele Fiano, sono entrambi del Partito Democratico. A proposito di partiti, però, voglio chiudere questa puntata, mi ha colpito con un sindaco siciliano che ha deciso di abbracciare la Lega, sindaco Armando Glorioso di Nissoria in provincia di Enna. Buongiorno sindaco. Che, guardi che lei ci ha detto giustamente, ha detto la nostra Elisabetta Fusconi, c'è un precedente a Lampedusa, ma lì credo più di un precedente, poi in realtà era il vice sindaco la Maraventana, ma però io ho dato l'adesione non alla Lega ma al movimento Noi con Salvini. È vero perché lì ci non sono confondiamoci. Insomma, Salvini è segretario di che partito? Mi scusi, Glorioso, adesso. Però scusa, è una lista civica lì, si chiama così, Noi con Salvini. Perché lei, cioè, si sente leghista? No, questo no. No, assolutamente. Io ho sempre guardato con grande attenzione quello che ha fatto la Lega dagli anni 90 in poi. Sì. Però credo che l'argomento Lega sia stato affrontato in maniera sbagliata, è stato considerato quasi un fenomeno folcloristico, quando invece la Lega, come poi i risultati elettorali hanno più volte dimostrato, rispondeva a delle istanze che oggi altre formazioni politiche pretendono di rappresentare. Ma se abbiamo un po' di memoria, dobbiamo ricordare che la grande rivoluzione che c'è stata a inizio anni 90, nel 92, quando si è scoperto il pentolone che c'era sotto e che tutti abbiamo conosciuto, credo che quel cambiamento è stato possibile anche perché allora ci fu la Lega che pressava per il cambiamento. Ma chiaro, ha avuto questo merito storico, alla Lega va riconosciuto. E lei l'ha elaborato un po' di anni però prima di arrivare dal 92. Cioè, ma mi faccia capire in che cosa mi faccia capire in che cosa vede in Salvini più che nella Lega. Guardi, io le battaglie abbastanza semplice, poi dico, io ringrazio in tutti questi, in questi giorni tutta l'attenzione che sto ricevendo per una cosa che a me sembra normale e che poi parlando anche con i cittadini siciliani o del mio piccolo comune trovano abbastanza semplice. E quindi io mi meraviglio di tutta questa meraviglia, di questo mio passaggio al movimento. Vabbè, un po' fa specie vedere che un sindaco siciliano. Io ho iniziato a fare sindaco col PDL, però poi da 3 anni sono indipendente, adesso ho deciso di fare questa decisione. Le spiego in pochissime parole. Credo che l'Italia sia a un cambiamento, diciamo, epocale che è stato auspicato tante volte negli anni passati, cioè quello di avere poche formazioni politiche e grandi, con idee, diciamo, pragmatiche, con programmi appunto concreti, piuttosto che perdersi in questioni. E lei li vede in Salvini. E allora qui noi abbiamo due estremi. Abbiamo da un lato il partito di Renzi, che è l'ennesima evoluzione del vecchio partito comunista, che ha cambiato 5 volte nome, ha cambiato programmi, ha cambiato casa, ha cambiato. Ma sempre tutto. Comunisti sono. No, non dico questo. No, non credo che siano comunisti. Io credo che piuttosto Renzi, comunisti, quelli, diciamo, ancora legati a un'ideologia, li abbia cacciati. Se qualcuno ancora ce lo voglia cacciare. Tant'è che questi si sono rifugiati votando per Grillo. Grillo è un calderone di tutti i partiti, di tutte le persone che ci sono. Sta facendo un'analisi politica straordinaria. Allora, ma invece in Salvini cosa vede? Allora, tra i due estremi, quindi tra Renzi, che difende ormai quello che è rimasto l'ultimo baroardo della partitocrazia, e invece Grillo, che è l'antisistema, cioè che vuole distruggere tutto, quindi tra Renzi che vuole salvare tutto e Grillo che vuole distruggere tutto, c'è un'Italia di mezzo, un'Italia del mezzo, rappresentata da Salvini. La più grande parte dell'elettorato, perché gli italiani siamo persone moderate, e di questa Italia di mezzo credo che Salvini sia l'interprete su alcuni temi la moderazione di Salvini non è proprio la cifra, la moderazione, quella di Salvini. Non so, sull'immigrazione, lei li prenderebbe i migranti? Ascolti, io sono stato, come dicevo, uno dei primi sindaci siciliani 2 anni fa, quando è iniziato questo tragico evento epocale. Sono stato uno dei primi sindaci siciliani a dare la mia disponibilità alla prefettura per ospitare una piccola comunità di migranti. E come la mettiamo questa con Salvini? No, ma io non ho nessuna. Io tanto distingo tra profughi e immigrati irregolari. Sì. Per i profughi ben vengano, perché scappano da paesi dove c'è la guerra e questi li dobbiamo accogliere, su questo neanche si deve discutere. Mentre gli altri. Poi c'è il problema degli immigrati, ma lì non è una questione, ecco, noi la vogliamo sempre buttare sul razzismo, ma il razzismo non c'entra niente. Io ho detto a qualcuno che mi contestava, ma tu sei razzista? No, dico, anche se fossero alti, belli e biondi, io è di sesso prevalentemente femminile, io sarei contrario, perché qui si tratta di un dato oggettivo. Sì. Allora, io come sindaco del mio piccolo comune non riesco a fare fronte alle emergenze sociali semplici. Noi abbiamo le famiglie dei disabili, quindi dice, perché prima, perché i clandestini? Io non riesco, cioè non vedo, non è un problema prima gli italiani, poi non è una questione di è un problema oggettivo. Lei dice, ho delle difficoltà oggettive con i cittadini che hanno difficoltà, mi devo occupare di loro per prima, ma non è una questione di classifica di cattiveria. Sindaco, però io la devo salutare, la ringrazio per essere stato con noi. Armando Glorioso, sindaco di Nissoria, provincia di Enna, che ha abbracciato noi per Salvini. Viene dipinto così come il primo sindaco leghista in Sicilia. Sarà il primo, non si sa, poi non ci ha detto che non è leghista in realtà, ma noi per Salvini. C'è la segreteria telefonica? Eccola. Milan, è vero che venerdì Renzi ha inviato un tweet che diceva così: stai serena, Williams. Ma togliami una curiosità, ma De Luca non era quello che chiedeva 500-600 milioni allo Stato italiano, cioè ai contribuenti, per pagare lì per i rifiuti che ha Napoli, la Campania, eccetera, eccetera, eccetera, e adesso propone l'aumento equiparando il compenso dei consiglieri regionali a quello dei parlamentari? È una vergogna, è un'indecenza che si deve sempre pagare noi, quando c'è da pagare si paga noi e quando c'è da dare chiaramente prendono loro. Hai visto la Merkel? Prima ha detto bravi i miei tedeschi, poi dopo 3-4 giorni ha detto fermi tutti, sono troppi questi stranieri, allora chiudiamo le frontiere. e noi invece li andiamo a prendere, gli diamo il lavoro e i nostri patiscono la fame, eh? Bravi italiani, bravi, bravi, bravi. È la nostra segreteria telefonica che torna domani dalle 6.30. Siamo qui con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Peter Vescapè in regia, eh? Non mancate, domani 6.30. Ciao.